dovessi provare a mettere un altro falo a sollevarla un altro paio di metri, e lui dice a posto. No, che faccio paura che me ne fai in capo. No, vabbè, non qua però, a centro tetto sì. Ma comunque mi so di, vabbè, un po' coperto sono. Sicuramente ce la metto a centro tetto e metto la staffa, le staffe giuste, che cambia tutto. Perché più in alto, capito? Per quello te lo sto dicendo. Poi vabbè, comunque, ti ripeto, stai andando alla grande anche così, senza mettere chissà che cosa. Ma questa è una radio che mi hanno regalato, mi. Buonasera. Buonasera, signor Claudio. Saluti a todos. Saluti, avanti già. Ciao Claudio, ciao, ben sentito, buonasera. Buonasera, cosa siete facendo? Mi parlano del più del meno. Stiamo, tanto per passare il tempo, che fuori non si sta bene. Stamattina c'era il sole. Perché non fa ancora allucinante. Lo so. Stamattina però si stava bene. A Platamona sono andato a farmi un giro, Platamona, Porto Torres. Non c'erano parcheggi, alla Rotonda era tutto pieno, a Balai era, a Balai Lontana era tutto pieno il parcheggi che c'era, stavano facendo tutti i footing, gli apicelli, insomma un po' di tutto. Io ho visto c'era un bella giornata, poi c'è una soffretta. Va bene, avanti a tu. Fammi, c'è anche Massimiliano, c'è. Avanti Massimiliano, apri il cimanghita, ci fate vento, meglio metti in varo, perché si sta troppo bene in quel posto. Avanti Massimiliano. Ehi, aspetta che vado a prendere il telefono, mi hanno dato una foto, scendo giù un attimo, ok? Ehi, tu, come ci scende a Platamona, bicicletta? Col tram. Ah, la bicicletta in due non si può andare, non ce la fai in due. Vai a imbarrare la ruota. Cazzo, ma fuori il capo così. Così il gatto non ha arrabbiato. Cioè, come solo come te il gatto si inciccia tutto. Ehi, dai. No, perché più di quel peso non lo sopporta. È come il gatto che tu nella macchina toglia, si pone il gatto un bel di quintale. Ti saluto anche la sigla. Buonasera anche a lui. Mi sono portato tutti già. Aspetta che cambio radio, voglio fare una prova, voglio toccare quell'icco, ma vabbè, anche se va, non ha picchi positivi, ma ha una bella radio, volevo essere la ricezione, ha migliorato che ieri l'abbiamo messo a posto. Cava, cava. Ho messo a posto pure il microfono dell'altra radio, stamattina mi sono capentato, ho comprato i cacciavitti quelli a latte che non aveva. Ha pintato, e poi come mettere su 5 che 30 anni col vento, che sta appoggio la penna dello scappatore, sta appoggio, ti pare un raglio, faccio pure le fotografie me. Ma vai! E non mi gridi, avanti lo mando! Sarà qualche fotomontaggio, dai! Luia! E addirittura! E beh, Anna, meglio sta! È fotomontaggio, già, ma è vero, è da fotomontaggio! Manda che la voglio vedere. Ecco qua, com'è la radio? Già. Va bene, si sente anche il Kenwood questo qua, si sente dallo stacco. No, questo lì come non è un Kenwood, il microfono è un MC60 con l'adattatore. E già va bene, si sente molto lo stacco. Ciao, chi è? Avanti! Chi è che mi chiama? Avanti! Eugenio deve essere, Eugenio tu sei, Eugenio deve essere. Non mi è sembrato Eugenio, lo sai. Attenzione che chiama doppio rubo, avanti. Eugenio, buonasera, avanti Claudio. Sì, dalla voce l'ho riconosciuto. Ciao Eugenio, buonasera, dove sei? La pattuglia nuova che hanno fatto, dove? Ah, sì, ho capito. Ho capito. Avanti Antonio, lo senti a Eugenio? Pio lo sento, dov'è? Sento, perché poi c'è sto cavolo di rumore, cazzo, a me mi rompendo le balle. Cazzo. Se continua ancora così, salgo sul tetto e gliela straccio. Mi sta rompendo le scatole. Ma che cos'è? Qualcosa di Linkem. Ci metto poco mio a salire su. Ok, dai. Vabbè. Quindi già va bene la modulazione. Sì, bella corposa, bella forte. Eugenio, dove sei andato a surfare? Ah, gente accelera stasera, stamattina era pieno di gente, si ammala lontana anche la rotonda. Ah, capito, dai. Ah, ci ho capito, io ci sono sceso stamattina a Porto Torres, ho fatto il giro, sono passato solo i vitriazzi lì, poi stavo aspettando a Central Vaclavi a darmi il segnale per vedere, per regolarmi come andavo, e invece non è entrato. No, stamattina la verità non l'ho manco acceso, perché stavo seguendo un po' mia moglie, già capito. Sì, ma l'ho immaginato. Sta meglio? Sì, un po' meglio, sì. Sta iniziando a appoggiare il piede per terra, c'ha sempre lo scarpone. Sì, quello lì lo deve tenere fin quando si mette a posto. K. Va bene. Massimiliano, sei rientrato? No, Massimiliano deve essere sceso giù a prendere il telefono, poi si è trattenuto giù forse. Andava. Eugenio, dove sei arrivato? Oh, capagappa. Sarà andato a farti un giro? Capagappa, dai. Oh, yeah. Andava. Avanti, bombolino, bombolino, bombolino. Capa, magari mi sente pure, io non riesco a sentirlo. Sento una cosa, pio pio, sento, e c'ho questo cavolo di rumore, c'ho. Quando va di vento, mamma mia, è insopportabile, l'altro giorno ho dovuto spegnere. Vedente quel cavolo di affare che, a certe ore rompe un po'. Secondo me chi sa fare? Ma che cosa hanno messo? Qualche ripetitore, qualche cosa? Quel coso di Lincoln. L'hanno messo sul tetto vostro? Ehi, c'è da un po', ma mamma mia. Quello lì, inquinamento atmosferico, gogo. Normale. Capa, chissà da marasso ci è. Sicuramente lui mi sente lì. Tranquillo, se mi sentivi tu mi senti anche lui. Ti stavo dicendo. Qualche giorno, ragazzi, ci facciamo il picnic quando finisce tutto questo casino. Cazzo, io quando vado lì, l'altra volta sono sceso. C'era un silenzio, una pace. È bello, è al mare. Bello sì, poi adesso c'è poca gente. Vabbè, escono come ti ridirighetti, come vedono un po' di sole, escono tutti e poi si rientrano di nuovo. Aspetta, vado a fare la pipì. Capa, se io mi trovo, smetto perché devo andare a fare delle cose. E via, devo dare una mano a Sara. Vabbè, andare. Massimiliano, sì. Sento Massimiliano. Eugenio, dille se mi senti a me. Eugenio, lo ascolti a bombolino. Oh, non lo sento manco più io, Eugenio. Deve essere che ha spento. Sicuramente. Ma lo sento sempre verso quella zona lì. Adesso, la prossima settimana, se fa bel tempo, avanno lo gioco. E io già ti dico, figli e mezzi varo, non me ne affutti nulla. Oh già, se ci siete, che io sto uscendo, scusate un attimo, sono trattenuto giù, però devo uscire, saluto a tutti, ok? Ehi Massimiliano, dai, buona scorrazzata. Capa, ciao Massimiliano, ci sentiamo. Capa, io la prossima settimana, sì, è fatti per do tempo, figlio di biglietti, mi si fanno, non me ne affatti nulla. Si sta da Dio, si sta lì. Ma che col silenzio che c'è, mamma mia che bello. Ma dove vai? Ai pettini? La rotonda vado. Ma dove vai a rostire la rotonda, scusa? No, molte volte mi ci scendo così. No, se no vado al secondo pettine, che lì c'è anche l'acqua. Ah, grava. Cappa. No, ma comunque mi piace anche scendere così, giusto per prendermi un pochettino di silenzio, capito già. Ehi, perché in quella zona saranno sempre affarrati, no, che si di colore. A dove? Lì a Platamona. No, dove abiti tu? No, Ghisi, Bravi sono questi, non sono nigeriani o senegalini? Nigeriani. Nigeriani sono mari, sono più mari, i senegalesi sono più di greffa, si adattano di più alla lingua sassarese, al sardo. C'era uno su internet che parlava il sardo, meglio di un sardo, lo sai. Parlava proprio il sardo. Già lo so, già l'ho visto già. No, ma no. La verità ti dicono. passare perché stava rimomando la casa. E tu dove sarà qualche terremoto? Sono in tappa. E io riprendo, riprendo. Sono fatto rubiare. Io ho gentile, io ho gentile. Qui non è uscito nessuno stasera, qua c'è un po' freddo. No, è che avevo paura che facesse acqua. Non c'è acqua. E che piovesse, mi. No, non è arrivato più George. Avevo quella paura, avevo. Bello freddo l'applicatore, no? Sì, ma no, c'è la temperatura che c'è che abbassa ancora, Sancio. Sì, boh. Ma dice che già Natale dice che fa più bello. Non so, chi dice che peggiora il tempo, chi dice che migliora, cosa risolvi? Forse mi sono ribiati, sto così bene a casa intanto, sono proprio attaccato a casa, mia moglie. Papa, vai da chi su cosa di fretta ancora? No, va bene, santo, adesso c'è l'ultima radio, non gracchia più, l'ultimo. No, il compander, quello là l'ho aggiustato, quello là già, oh cla. Il compander magari un pochettino di cosa lo dà. No, quando attacchi con l'interruttore ti porti appresso quel rumore. Il rumore lo fa sempre, vero? Sì, è positivo. E così non lo fa più, la prospera va. Mi piace, te lo faccio sentire quello là, un attimino e poi scendo giù. Te lo faccio sentire come esce, aspetta. Ti dirò, non lo attaccare con DP, con la gaffa, non lo so, perché esce meglio senza, la voce è molto più chiara. E poi già che vado a mettere il ghiaccio a mia moglie. Già, aspetta un attimo, tu che devo mettere la borsa di ghiaccio a mia moglie nel piede. Vedi che non lo fa più già il difetto? No, non lo fa adesso. Aspetta un attimo, tu che vado a mettere il ghiaccio a mia moglie. E cappa, dai. Sarà. Così già. Già va bene, adesso in stazionaria. Ma cappa, dai. Oh già, io scendo giù che devo fare roba. Dai, ce la risentiamo, ok? Oh là là, tornata all'origine. Ho già scaldato bene l'antenna e tornata all'origine. E appena. Sono al telefono, scusa. Dai, non ti preoccupare, dai. Io chiudo perché non andrò a fare roba, ok? Che parla qua, avanti. Ma che sei, Eugenio? Oh, buonasera, Lupo Grigio. Sì, Santiago 7 Radio 5, già va abbastanza bene. Sì, c'è un po' di freddo, sì. Tu come mi ricevi? Come mi senti tu, mi senti bene? No, sono Antonio Bombolo. Ragazzi, dai, sei Santiago 7, sì. Ma sei mezzo davanti o dove sei? Ragazzi, dai. Riportate che mi senti. Ragazzi, dai, un po' grigio, dai. Ce la risentiamo alle prossimine. Ok, dai. Mettila sul tetto e fai prima. Ciao. Che si dice? Kappa. Tutto a posto, tutto a posto. Tutto in ordine. Ciao, tutto bene. E tu, tutto ok. Ehi, Kappa. C'era Gianni Antonio, perlomeno, quando c'ero io. C'è Antonio, Gianni, forse Gianni al telefono, non lo so. Perché sono troppo alto di potenza, sì, un attimo. Ecco qua, già va bene così. Ciao, Cla. Ciao, Natale, tu sì. Ehi, ancora. Ti è venuto, allora, dopo il boom. C'è bisogno di dire. Io, lo stavo dicendo. Ma ci è venuto alla... Allora, intanto, me l'ha portato, l'ho fatto la volta e ce l'ha riportato via. Beh, allora non c'aveva niente di che. Domani o dopodomani arriverà quello là, capito? Io ho guardato, è vicino, no? E comunque mi vai 50 km da là con lui. E quei 3-4 giorni sempre ci vogliono. Infatti domani dove ci verrà? Già lo chiamo. Lo chiamo domani per essere fatto tutto. Ma potevi prenotarlo la casa. Capito, non aveva bisogno di essere pensativi. No, io internet, ho tutto sul telefono, capito? Quindi ho digitato quel codice che mi hai detto tu dal telefono e ho visto che mi dà 50 km, 40-50 km, sicuramente è qualche deposito che c'è della GLS lì. Chi è? Gianni, c'era anche Gianni, così era. E io lascio il telefono, come sta facendo cosa? Quanti stavo dicendo? Qualche momento ho guardato, ce l'hai trovato. No, non ci ho guardato qua. Non ci ho guardato, ma l'ho collegato oggi. L'ho collegato. Però Gianni mi sta dicendo che stavo uscendo con un'alternata. Capito? Kappa. No, però già ci sono i cosi. Controllato, l'ho usato senza le batterie. Non ho capito, quindi ho eliminato la batteria, gli altavoce ci sono. Sì. Ci sono. Però stavo usando oggi con Antonio, con Gianni. E però mi sta dicendo Gianni che c'era un'alternata. E così che poi ne ho tolto, ci ho rimesso questo. E lui no, comunque funziona tutto, capa. Quando vuoi, come vuoi. E lui mi ha fatto così col carretto, dove per me, io l'ho usato, era perfetto, fatto così col carretto, prendendo le tue voci, anche se l'ho fatto bene, eccetera. E se prendi il suo, ti ho detto, guarda se trovi il suo, leggiti l'ultimo messaggio che ti ho mandato io, capito? La mattina, prima dell'ora. Guarda se lo trovi, poi fammi sapere, non c'è un problema, capito? E si prende il carretto uguale, con la connessione auto per l'SM20, no? E gli subì le notti così, per i 60, per i 50, non lo so, puoi usare anche il 50 con il microfono normale. A proposito del 50, ti ho dato quel circuito di amplificazione, non l'hai attaccato? No, non l'ho più... l'avevo conservato 50 e non l'ho più tolto perché lo voglio tutto restaurare prima, capito? Che è troppo messo male, devo saldare anche i fili di un gelato, appunto. Aspetta un attimo che guardo. Guarda, c'è un torri quel carretto, guarda che c'è, nel sito della Marcucci ci sono quei carretti, tranquillo, scrivi direttamente adattatore 8 pin R706 MK2 e te lo dà, io l'avevo trovato così, l'avevo chiamato e me l'avevano spedito, e devi scrivere proprio così, adattatore 8 pin per il 706 MK2. Dovrebbe essere questo. Aspetta un attimo. Tu non me l'hanno detto di guidare. L'ho già comprato io. E si conferma. OPC589, sì. Adattatore per microfoni 8 pin con spina RJ45, sì. Le dicevo, come si? Non mi viene. Sì, è questo. È questo. Ho rotto, attacchi il coso e questo è il corrente. Ma va bene, una cazzata cosa? Ordinalo subito, aspettiamo il telefono. Aspetta, sto guardando qua prima. Aspetta un attimo, che sto guardando se sto mandando un messaggio. Io, va bene, io sono qua. È rotando. Aspetta, mi ha dato il messaggio. Allora, vanni, fa posto. No, c'è delfino curioso, flipperce. Beh, sicuramente non mi ascolta qua col bipolo, Vanni, io già lo sento. Allora, perché l'ho scesa per fare la revisione, la verticale, e nel frattempo ci ho messo, c'era già il dipolo, capito? E così che ancora mi devo decidere se mettere la verticale oppure se toglierne anche il dipolo. Facciamo da attendere la radio. Almeno forse è finito. Quello è vero. Lockdown. Adesso dopo si vede un nuovo lockdown e vedi di nuovo gente dentro al mio frequente. Buonasera comunque Vannino, dai, sono entrato così perché ero al telefono e ho mollato adesso, dai. Si dice orecchione! Come filtro lo metterai? Minchia, ragazzi! E tanto, è come dire spazzino, né turbino, operatore ecologico, è sempre quel lavoro lì, è un esempio, è niente da dire contro le turbine. Lo chiamano in tanti modi, però è sempre quello. Le giorni di sgarbi contro filtri. Orecchione, come ti avevo detto, orecchione, oddio, orecchione, si dice froscio. lui è sempre, cazzo, molto educato, cazzo, è un intellettuale, è cimonica di parolaccia, tutta andata, vedi, non è tanto la scuola che dà l'educazione, parla così come se fosse con gli amici, capito? Oh, già, lascia perdere, l'ha intervistato, si è attaccato da Bogo, d'ora. Nessuno, poi si incatta come una belva. Io l'avevo vista a Porto Torre, se l'ha venuto con due donne, ma due stangone, belle ragazze, a fianco a lui. E c'era la festa di San Gabbino, è andato in uno di quei chioschi che fanno i panini, eccetera, eccetera, ha chiesto due panini, gli ha detto come li voleva, e quello lì ha detto quanto ti devo dare. E già riesce a fare anche la persona splendida, ma c'è un'educazione addosso che non viene bene a dirlo, cioè si sente in televisione, non è che uno accende la TV, ci sono dei bambini e deve sentire a te parlare in quella maniera, una cosa impressionante proprio. Come hai detto tu, non guarda in faccia a nessuno, qualsiasi programma è lui. Non guarda in faccia a nessuno. Vabbè. inglese là. Guardi, ma ci sono dei programmi che magari ti interessa quello che dicono gli altri, se ce n'è uno che sgarra non è che tu devi guardarti il programma perché c'è lui, questo è. Se ti interessa il tipo di programma, solo perché c'è lui tu spegni il televisore. Piccoli non ne ho a casa, l'unico piccolino che ho di 5 anni è Tyson, ma non si scandalizza. Barbara D'Urso già ti piace. Quella praticamente fa business con le disgrazie degli altri. Avanti chi sta fischiando continuamente, avanti. Ciao Bruno, no scusa, ma pensavo che fosse qualcuno che volesse rompere il scatto. Andare. Bruno, sono in compagnia con Vanino Di Sorso e Claudio, vai, avanti. No, sono qua. Sul 20, ci sentiamo dopo, dai, faccio questa greca un attimo, faccia sul 20. Ma ci Bruno, non ci buona l'antenna, io non sono già con cacciare il dente. Ciao, buon buon avanti. E capa, no, avete inteso, io già l'ho sentito qua, non lo so dove sta modulando. E da lì giù, da là, vicino a casa di Gianni, qua arriva a basso basso, ma non l'ho sentito io. No, non lo so, no, qua già arrivava già, ma non lo so chi è. Non l'ho mai sentito Bruno. Tu sei giovane, Bruno Ragano, vecchio CB. Ci avete avvicinato a voi giovani, c'è un'Antonina. Io lo sento quando stai in macchina. Che sei in macchina, ma qualcuno non arriva con 40.000 che ha messo. Quindi no, non so cosa dire. C'è anche Vannino da Sol, c'è avanti Vannino. Sottoni Vanni, dai, ce la risentiamo. Luca, ci sei? C'è Luca, è carino. Forse sta facendo cosa, vediamo se mi ha mandato qualche messaggio. No, non me ne ha mandato. Gianni si è ascoltato sui 20 con un ragazzo, perché lo sente solo lui. Lo so, io no, qua già mi arriva, già non mi arriva con un grande segnale, ma già mi arriva. Purtroppo si non fai antenna, come ti vai? Vabbè, però se tu fai l'antennino o vacconi di macchina, cioè non è che puoi pretendere molto, ti sento molto vicino, ma da me è molto lontano, quindi non arriva, se vuoi tricchia. Anche tu quando non avevi l'antenna sul tetto avevi un'antenna che però ti facevi sentire un po' da tutti, ma noi puoi buoni un'antennina. Lo so, pare così, ma l'urruccio di cobro mi ha fatto modulare a me. Mi sentivano anche un po' più lontano. Vabbè, ma quando siamo così in questo locale, basta che ci abbia un'antenna performante. Ma c'è poi una buma, il barattino, il rugoso, sei a casa tua, non stai chiedendo niente a nessuno, faccio quello che mi piace. Ma se metti un'antenna così piccola, poi una colibri, che io la conosco, l'ho avuta. Piccola, un metro, cosa ne vuole? Lo so. Una boomerang grande è già qualcosa di importante, la boomerang ci può, se la metti va. Vabbè, ma se non la metti non va, capito? Quindi bisogna metterla, però, se no è un casino. Vabbè, ognuno può fare quello che vuole. Va bene. Quindi, ricapitolando, hai riparato il microfono e poi? Poi l'ho messo a posto dove c'è stato quel cavo di spezzone, non so. Vabbè, comunque lo sto facendo andare, la Marabai funziona bene. Claudio Pedivella! Poi, dici che, Creta, non si c'è, relax. Allora, relax, non ti ho sentito per niente. Gianni, rientratoci. No, Antonio, riprendi. Beh, bicicletta. Claro, ciao. Se ne sbuglia. Poi in questa cameretta, meno male, vabbè, già c'è più. Oddio, caldo, no? Un po' così, da. Guarda, se io ti dico, con tutto il freddo che c'è fuori, che c'ho la finestra, la bugibile è abbassata, ma c'ho la finestra aperta, perché c'è un caldo, qua dentro io c'ho il pigiamone, no, il pigiama pesante, quello invernale, certo, ma è un caldo, non si può fare. Immagino che se chiudo la finestra, viso 30 gradi, il cabine è 23, abbacco un abisso, quindi c'è un po' di caldo qua, casa nuova. bene, va bene. Mi ha ancora mi ha fatto una birra, ragazzi. Faccio chissà gorgonzola, chissà gurgucciare me. Mamma mia, quanto è buona! Non chi da tipo la gym, no, là sa chi c'è chi si piglia la Leonardo, chi sa gorgucciare. Mi ha già fatto una scorpacciata, oioia, buona reddo, Con un bana brutolito. Buono. No, io, qua abbiamo mangiato i lumi. Con verdura, stavolta ci avevamo pizza tutto qua, pizza, non finito come lo fai, l'aria, adesso sta comendo pizza, poi infatti c'è un pochino di vino buono in frigo, bello fresco, e poi c'è una bottiglia di brutto anche di sfumante, con i dolci, pane e torce, stavolta di una roba giusta, chi va giù fammi. Vabbè, là, ci sentiamo male dopo la casa. Sì, va bene, dai, buon rientro a casa, buon tutto, dai, ci sentiamo. Ascolta, Lu, qualcosa prima di andare via. Niente, sai, se quel televisore martedì lo posso portare a Piazza Resini o devo portarlo per forza allo Autoparco? Perché ho visto che ritirano anche il computer, quindi. Io porto tutto all'Autoparco, là. Però è un peccato, magari che con due cose lo sistemi. Non lo buttare, cazzo. Portalo a me, ma non giù io, portalo a me. Perché non è piedi, non l'ho attaccato al muro e non è piedi, capito? Ma che te lo porti, e dai una controllata, ma ce lo recuperiamo. Portalo domani. E io non metto in macchina domani, ti chiamo, speriamo che affetto la volta. Tanto è... non c'è staffa, non c'è niente, capito? Più di stallo, nulla, c'è i gacci per attaccare al muro, l'ho fatto. C'hai il piede, ce l'hai almeno? No, non è a piede che l'ho fatto da parete. Vabbè, vediamo un po'. Cioè, non dà segni di vita praticamente. Cazzo, ogni tanto buttano le cipolle questi bastardi di merda, cazzo. Allucinante, bro, fanno un casino nero. Come ti stavo dicendo, non accende la spia di accensione. Uguale all'altra volta, il corriere, preciso identico, non accende la spia d'accensione. Tu porta, non frega, dai, già lo recuperiamo. Ma ti può fare anche 2 anni, cazzo, e poi si vede due lampi. Sì, anche perché quello che ho è più piccolo di quello. Già, vabbè, lo stesso per me, giusto per fare partite, però quello lì è grande, e poi era parete, capito? Quello che ho invece non è a parete, l'ho preso per vedermi, per mettere qua. Già c'è il posto, c'è il tavolino, l'ho appoggiato lì, però mi piace rimettere quello, là. Vabbè, già te lo porto domani, vedi quello che puoi fare, se non si può comprare. E intanto adesso aggiorniamo mai dopo, ora se ci sei, io arriverò verso le 8:30 a casa. A dopo, ciao Antonio, ripeto. E K, magari si può recuperare questa televisione. Guarda tutta la tecnologia che c'è adesso, costano una cazzata a gusta. Però va, ci si può recuperare, va bene, va. Andiamo a farla andare. Ma non l'aveva già riparato Luca, sicuramente riesce a recuperare, non accende. Ho già comprato un nuovo conto, infatti quello lì lo è già qua pronto per martedì. Portarlo a Piazza Resini che recuperano la roba, capito? Luca, ma è un montato nuovo, è un Mifarmi, non è un televisore di sì, la Biaffetta. C'è un sacco di anni, ma sempre funzionato bene, c'è anche i bei colori, capito? C'è il decoder incorporato, un HDMI, capito? Io sto qua per vedere le partite, qualche cosa. C'è la parete, infatti l'ho tolto, ho messo la cartina sul posto, se non mi rimaneva lo spazio. Non c'è problema, capite? Non c'è problema. No, infatti adesso quando... se si può recuperare, che Luca riesce a farlo andare come l'altra volta, lo metto dall'altra parte, non lo metto più qua dove ci sono gli HF, dalla parete degli HF, capito? Lo metto dall'altra parte dove ci sono i vintage. Ma fa fare così, capa. Sì, ma la giustanda. Capo, le stazionare mi sono ritornate com'era, un pochettino salite, adesso mi sono ritornate com'erano. E già lo sai che c'è quel vizio, questa antenna. Ma neanche mica tanto, ti permette di modulare tranquillo. io, cazzo, non riesco a comprendere, dico mia domenica, cazzo, uno mia domenica, Cibone abbattì, Ciori contro Giori, Bastellatte, Trappani, cazzo, dare guato rompendomi le balle, ma cosa fa Zegussi? Perché praticamente ha preso la casa della mamma, capito? Che non c'è più. Lui abitava in via, non mi ricordo. E quindi c'è stato anche di quadri, puzzendi, vendi, drabbarendi, cazzo. Infatti l'altro giorno ha detto, ma finito di fare casino. No, mi devo fare due cosette ancora. La gente secca di vinibaro, fallo la mattina, cazzo. È utile che ogni domenica sera te ne vieni lì a rompere le palle la gente, cazzo. Boh, fallo di domenica mattina. Papà. Se no, carichiamo tutto in macchina, e vediamo noi lo tanto. A voi che non ne trovo più, Eddo. Sì, non è che sia fastidioso, non è che buoni a lui, no? Alle 4:30 iniziate a martellare a fare. Poi c'è qualche fango battiscotto, cosa che si affrendi, buttone di gioco. Chiudi, so. Sicuramente sta facendo qualche lavoro, e vabbè, faglielo fare. Ci abbia il culo. Va bene che va bene. Doppio, doppio, doppio. Mi sa che è ancora sul 20. Aspetta, per favore. E ci attendo lo portate un attimino. Ehi, ehi, è lì, c'è anche Giulio Loro. È ancora lì. Sì, a me mi arriva basso, a me, se non intendo io, voi fate passaggi, cazzo, mega galatti, che pare Falcone 2, cazzo, va vedendo. Sì, vabbè, magari. Io capisco, però, cazzo, non è passato due ore, ci tende, io non finire a fare danno. Vabbè, se vuoi andare, vai, altro, tu lo senti, vai, sul 20, a me no. Non c'è problema, io già rimango qua, no? Se non lo sento, non te lo tranchivi. Ma fra poco devo fare a Giosso, a Giuda Sara. Sì, infatti sono già le 7. Fra un po' fermare le pizze anche io. Però se rimanevo qua, non c'è problema. Ma io non... Se non lo sento, non te lo Lo so, purtroppo è così. Questo è l'alfaietti Zeus qua. Va bene, va. Ottimo per la truppa. Già un grido già, quell'altro vecchio che avevo prima. Adesso ha aumentato la famiglia, c'è il portatile. Quattro ne ho in tutto, vai. Però questo qua l'ho usato per tanti anni, già va bene anche questo. Sì, già va bene, sì. E tanto io ne ho un bel radio ancora, ne ho fatto fuori 5. E ne ho ancora un bel ho tre linee complete di Kenwood che sono qua in questa base, e poi nell'altra base ce ne sono otto basi vintage con 5 microfoni da tavola e 3 microfoni normali, quindi fatto un buon, è così, c'è un bel radio, qualcosa l'ho trovata anche, c'è un carico fittizio, un nuovo ZG che si chiama BMW 131, uguale, preciso identico, ed è dentro l'armadio, c'ho strumenti, balle varie, alla fine già vai, perché dovrò portare a vendere quella roba, le radio che potevo vendere le ho vendute, però il resto me lo tengo, non è che posso vendermi tutto. Beh, certo. Ti mando un messaggio, ti mando. Manda, che sono qua. E si conferma. Sì, là. Scappa, ridente. Vabbè, va. Ehi, ehi, Antonio. Ottimo per la truppa. Nato il microfono, E perché ballacche. Già lo so, già. Oia. Che ce n'è? Esce a vedere a Gigi. È freddo. Sarevamo molto forti, 9:20 abbondante, sì. Già lo so, già spinge questo qua. Ma ho comprato questo spezzone da GBC e va benissimo. Non l'avevo usato mai così. È perfetto, perché mi serviva uno lungo, adesso me devo fare un altro, ma che ce li posso io? No, io anche mi sono messo l'altro giorno, tra l'altro non stavo salvando, che avevo un po' di pelle nuovi, quindi battito marrone per interno, vanno bene. Ho preso da sul petto, da su una sabba, 2-3 metri di, che mi avevano fatto di H1000, mi sono fatto l'ispezione per il Kenwood. Per i baracchini va bene, anche il 58, ma per il Kenwood mi sono fatto dal commutatore, perché adesso c'è il commutatore che commuta da una scrivania all'altra, mi sono fatto l'ispezione di H1000, perché mi sono rotto le palle di fare questi ispezioni che ogni tanto ti lasciano a piedi. Lo so, Cla, ma è... dove li trovo? Io ce ne avevo uno, me ne ha portato uno, l'ha portato una persona, ma dove cavolo li posso trovare questi imbacchilite? Non ce n'è, no, non ce n'è, non so se ne ha la GBC, Fusaro c'ha quelli bianchi, perché l'azienda che ha c'ha solo quelli, le manda solo quelli, e io non le do pareggio. Io ne avevo 3 o 4, e ne avevo preso una busta da 10, e li ho tutti utilizzati per vari lavori, poi li avevo comprati su internet, capito? E già lo rivedrò un po' di palle e me li ordino, perché no, non è possibile. Cioè, non so se ha pagato un PL come ti si deve. A me l'altro giorno mi si è spaccato dentro. Ne ho dovuto rifare, è colpa mia, perché non so che col saldatore ci devi andare piano. Devi saldarli bene dentro e boh, è finito. Guarda, tu, quelle bianchi le devi mettere proprio, fai uscire il filo centrale, proprio lo fai uscire dalla punta del PL. Lo metti appena appena di stagno in punta e poi tagli con la forbice, non puoi fare altro, perché se tieni il saldatore a riempire, guarda, ti si giù di mano, non servono a niente, hai capito? Lo so, no, io li ho fatti così, io l'ho riempito un po', poi basta, e uno mi si è sciolto. È una rottura di balle, infatti io c'avevo quelli lì e mi sono fatto le ispezioni per la radio, per queste qua e basta. Per gli altri ho usato quelli che avevo, sono vintage intanto, non è che li uso sempre, ogni tanto li accendo, ne faccio andare qualcuno, capito? Però qua non si scherza, perché ho un PL in corpo, ho cazzo dischi di luce rifinati. Sì, perché non lo so. Dai, sono meglio che si vecchi bianchi che si fa di una parte. No, scusa, hai già girato le balle, no? Ui, lascia perdere. Va bene che va bene. Lo so. Ah, adesso vedo che questo qua sta andando bene, mamma mia, questi ispettori sono pericolosi, pericolosi, mamma mia. Lo so. Attento, Flippe, dice che sei lui in tiburetto. Sì, da. Io, chi è entrato? Io ci sono. Luca, non è rientrato ancora? No, non è rientrato, no. E ci metto un bel po' a rientrare. Dici non ferma. Scappa. Un po' qua, ma ho fatto i buchi, ho messo la presa di sigari per l'altro apparecchio, mi ha fatto lavori, Signora Maragra, non ti dicendo se sopra di me che stiamo facendo un gabbo. Anzi, se continua sono già le 7:10, vado adesso noi due campanello, invece venite a rompere le balle. Ah, capolanno per muvizia, gatto, invece ne avvini. Cazzo, io dico che specialmente da Ruretto si gaggi. Bel capolanno di merda, tu, bel capolanno di merda. A casa non si può uscire. Cosa fare? Il bombetto della bugione, pare. Casino, alle 10 a casa, non puoi invitare nessuno, non ti puoi allontanare. Dal comune al comune, ma non puoi scendere da lì, pure mio fratello, nulla, scusa, rottura di balle. Cosa la posso, gà? E con pareggio un paio di bacche gacciucci, pum, facciamo un casino. Io mi già, posso fare anche quello, ma non l'ho fatto manco l'anno scorso, non farò neanche quest'anno. Capito? Se no me ne vado su una sarda, l'ho detto, so che ti vuole, sono più ardui tutti, quindi però non mi interessa tanto fare queste cose. Però la cosa grave è che non puoi scappare, così che l'anno scorso noi eravamo qua, ha fatto la cerva i suoi parenti a Porto Torres, i parenti della moglie, noi eravamo qua. Siamo usciti a farci a lui tutto, no, ti buttano poi fanno un bel cazzo, bella rottura di base. Lo so, se noi faremo guru guru. E lì sono fa problema, basta una baciata di bava o di ceci. Una gacetta di cartoffa. Non è tanto che con la barridita. E se arrivi, cosa fai? Appieni, tanto. Se messi male come possiamo, non è che ci siano molti discorsi da fare. Attento, Flipper, Delfino Curioso, Luca Matter, Bicicletta. Invece che farà giozzo, va, e cominciamo a fare che cosa. Dai, ci sentiamo più tardi, ok? Vai, Antonio, non sono qua, già sono in ascolto sul 20, vai tranquillo. Sì, ok, va, non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Claudio.